Proseguo il mio cammino anche se il corpo resta esanime. È più facile nascondersi dietro alibi di lacrime. C'è chi lotta anche quando ha le pulsazioni minime. Dottore, la prego, mi aiuti, dottor Jekyll. Mister Hyde, mi suona il campanello già alle 10. Ho fatto anche gli esami, urine, sangue, più le feci. Il referto sembra dire che i difetti sono i pregi. Vibre positive, baby, proprio non ne sento. Spingo a tutto gas e corro verso il fallimento. Mani sul volante, non detente da un momento. All'altro collo schianto, tornerò indietro nel tempo. Faccio allenamento, che mi torna buono. Voglio dopo il lampo, non sentire il tuono. Ma fissare sotto i piedi, scomparire il suolo. E poi vedere in fondo quella luce, udire il suono. Angelico di chi può rapirmi da quei demoni che mi stanno appresso come la Rai con il canone. La possibilità di una salvezza resta ai minimi. Storici, euforici, ridiamo in modi isterici.